avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà. In questa tristerrima mattinata milanese, tristerrima perché l'escursione termica da 15 gradi di Roma ai 4 gradi di Milano è stata tragica e fatale, mi ha fatto decidere che è ora che io cambi vita, ma forse anche ora che cambi mestiere. Molti batteranno le mani, era ora, fate la ola, ecco, finalmente te ne vai, t'azzittisci. Vabbè, finalmente me ne vado e azzittisco. Oggi vorrei però, come viatico dell'ultima trasmissione, probabilmente farò alla radio, il fatto che voi mi aiutiate, visto che siete un pubblico esperto in imprenditoria, visto che l'economia è uno dei temi a voi più cari, questa mattina aiutatemi, farete un piacere anche a voi stessi. Ho deciso questa mattina che cambierò completamente mestiere, cambierò lavoro, cambierò vita e concretizzerò uno dei sogni della mia vita, anzi della fase senile della mia vita, perché in realtà quando avevo 18 anni pensavo ben altre cose. Voglio aprire un locale come? Sì, già me lo immagino, bellissimo. Lo aprirò a Roma, nella città vecchia, forse dalle parti del ghetto, forse, non lo so, quartiere Monte, molto fighetto, ci sono tanti colleghi, tanti amici, o intorno, non lo so, nella zona intorno al Colosseo no, perché è una zona pericolosa, ti prendono a sassate se magari ti scambiano per persone non gradite comunque alle ronde del quattume notturno che spesso solcano la capitale. Ma beh, troverò una maniera di trovare un buchettino. Cosa voglio farci? Voglio un posto dove innanzitutto ci sia bella musica, cambi tutte le sere, piccola musica, musica discreta, musica ricercata, musica che piaccia, musica che non invada, musica che permetta alle persone di parlare. Poi cosa farò io? Ma io farò quello che ho sempre fatto la vita, chiacchiero, parlo, chiacchierò con le persone, sarò lì a disposizione chi vuole. Poi bisognerà mangiare e quindi mi servirebbero delle persone che mi consigliassero qualcosa di nuovo, qualcosa che non c'è. Questa mattina sono arrivato, ho visto una collega riconosciuta, pesava 50 kg meno, mi hanno dato dei funghi dei miei amici, sono stata avvelenata con tutta la famiglia, ha passato un capodanno di dissenteria e quindi è dimagrita. No, voglio evitare questo, qualcosa che faccia bene, qualcosa che non sazi ma appaghi, qualcosa che sia una sorta di momento propedeutico e preparatorio ad altri piaceri che vorrò incentivare poi con spettacoli a fare una certa ora in poi. Mi piacerebbe delle donne molto belle, ma anche degli uomini magari, piacevoli, che facciano qualcosa di ammiccante, divertente, sottilmente erotico, ma non smaccatamente volgare. Non voglio vedere veline, pupe, secchione, non voglio vedere scosciamenti. O ieri sera mi è capitato di vedere in diretta una delle scene più fantastiche della televisione italiana. Anna Falchi, puerpera, partorito da un mese circa, a un certo punto, circondata in un programma televisivo in cui ho avuto l'avventura di passare, da sgallettate e perizomate si è tirata sulla gonna e si è mostrata le mutande con la panciera, dice guardatela, bellissima, una cosa fantastica, meravigliosa, qualcosa del genere. Ecco, la maternità che non segna appunto la deriva ultima della femminilità. Anna Falchi con la mutanda contenitrice che sollevava la gonna, illuminata, nel panico intorno, pieno di ragazze perizomate e pieno di fili intertentali che segnavano le siliconate e chiappette di tante ragazze, è sembrata una cosa meravigliosa. Ecco, vorrei riportare questo nell'ambito di uno spettacolo all'interno del mio locale. E porrei la luce come piace a me, i profumi come piacciono a me, la gente come piace a me. Tutto questo sarà possibile 800240024. Chi mi dà consigli certi questa mattina e saggi su come aprire il mio locale avrà la possibilità di togliermi finalmente dalle scatole. Vuoi aprire un pub? Ecco 10 cose da sapere per migliorare il tuo business. Devi riuscire a crearti un nome e un'immagine consolidata nella zona in cui operi. Crea diverse formule di divertimento e intrattenimento per attirare i clienti ed indurli a consumare e a restare più a lungo nel tuo locale. Io Io certo, se guardo la rassegna stampa che il sadico Intonti mi ha fornito questa mattina, perché non vedo l'ora di che io sia sostituito magari con qualcun altro, con qualcuno che viene da fuori, con qualche collega molto più affascinante, e mi ha dato una rassegna che sembra una sorta di necrologio, di persone come me che non sono del mestiere, che non l'hanno mai fatto, che pensano che sia facile, pensano che sia rilassante, pensano che rispetto al lavoro che non ha orari, non ha tempo, non ha padroni, sì, ma non sei nemmeno tu padrone del tuo tempo, che quello che faccio modestamente io, il lavoro dell'oste o del gestore di locale o del tenutario di pub, sia un lavoro facilissimo, divertente. Io me lo immagino che la sera, ma a una certa ora vado nel mio locale, già tutto pronto, ho dei camerieri che mi salutano, il pianista che suona il piano, le soubrette che mi fanno l'occhiolino, dietro il bancone mi servono il mio margarita, sento la musica, vengono immediatamente i migliori amici che ho nella vita o quelli che ha sempre voluto conoscere, e si beano del fatto che io racconti la mia giornata, chieda loro della loro giornata. Così me lo immagino, non è così. Triste tango a Pavia, investire in una pizzeria è una storia kafkiana, un pezzo del terreno, la tragicomica storia del pizzaiolo sconfitto dalla burocrazia, e il pizzaiolo si arrese ai burocrati, le mie disavventure da imprenditore, 4 mesi per aprire una pizzeria, e via dicendo, la via crucis per vendere la pizza. Io vedo che questa idea, questa sorta di vana lussuria di aprire un locale perché sembra facile, sembra un mestiere che tutti possono aver appreso. Io, perché mi sono scoperto sul far dei 50 anni bravissimo a cucinare, l'avevo mai immaginato, mai cucinato in vita mia, improvvisamente così, per necessità, perché dovevo cucinare ai miei figli, perché mi trovavo in circostanze che se non lo facevo io non lo faceva nessuno, i poverini come passerotti sarebbero morti di fame. Ho scoperto delle formule che mi sembravano innovative, la pizza alla doppia patata, avevo soltanto a casa la pasta della pizza e una patata, ho inventato la pizza alla doppia patata. Voi direte, che c'entra la doppia patata? Beh, questo fa parte poi dell'aspetto di intrattenimento, dell'aspetto di ospitalità di chi deve mangiare con te la pizza. Occhio al posto dove vuoi aprire il tuo pub. In luoghi affollati l'affitto è maggiore, ma l'affluenza e quindi i guadagni saranno elevati, mentre se apri in un luogo isolato dovrai investire maggiori risorse in pubblicità per promuoverlo. Fondamentale per il successo di questa attività sono l'immagine, l'arredamento e l'ambientazione proposti. Cerca sempre di distinguerti dai tuoi concorrenti e cerca di dare un tocco di originalità al tuo locale. Cerca di ampliare la gamma dei prodotti che offri. Una buona musica di sottofondo è in grado di favorire pesantemente il successo di un locale. Ecco, io questo decalogo che mi ha stilato Fabrizio Intonti questa mattina non lo sapevo, quindi già sono un punto avanti, però non so quello che ci vorrebbe, ma fra il dire e il fare naturalmente esiste un abisso. Sentiamo questa mattina Emiliano, intanto vi chiedo di aiutarmi, 800 24 0024, se volete che finalmente me ne vada da questo lavoro che pare non soddisfare molti ascoltatori, aiutatemi a aprire almeno il mio locale. Emiliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Può aiutarmi lei? Innanzitutto non posso smentirla e non posso smentire i primi punti del decalogo che sono già stati enunciati, perché effettivamente corrispondono a realtà, insomma, per cui diciamo la posizione piuttosto che l'immagine del locale sono fondamentali, ecco, dal punto di vista imprenditoriale per avere successo. Vabbè, l'immagine, io ci metto la mia faccia, un po' sono conosciuto, questa mi sembra l'unica cosa che potrei portare dal mio punto di vista come cosa certa. Quei 4-5 che mi ascoltano perlomeno sarebbero incuriositi a vedermi con la parinnanza che faccio la pizza alla doppia patata. All'inizio almeno funzionerebbe un po' il brand, forse, no? Ma sicuramente sì, lei parte avvantaggiato sicuramente. Sì, ma il resto come lo vede? Possibile? È possibile ed è un po' quello che ho fatto io con la mia famiglia. Insomma, io adesso ho 28 anni, ho 3 figli e 4 anni fa quasi ormai sono scappato da Milano e mi sono trasferito a vivere in un paesino in provincia di Piacenza che si chiama Agazzano, che è un paese di 2034 anime. Lo so perché in comune viene registrato quotidianamente il numero di persone abitanti il comune. Agazzano. Agazzano, esattamente, e ho aperto un ristorante con degustazione annessa su due piani, quindi... Ma lei che tipo di esperienza aveva? Cioè, giocando soltanto su quello che nella vita di ogni essere umano ha a che fare con il cibo, le bevande, l'intrattenimento? No, io in realtà ero studente di giurisprudenza a Milano, per cui una cosa... Non c'entrava nulla? Non c'entrava nulla, senz'altro avrebbe avuto sfoci di prospettive completamente diametralmente opposte a quello che poi ho scelto di fare. Quindi diciamo una situazione che prevedeva una strada completamente diversa, un lavoro completamente diverso. E quindi ce l'ha fatta, però funziona? Funziona. Non posso dire di aver passato ovviamente i primi anni gioendo per risultati, sia dal punto di vista... Ecco, materialmente, la sua giornata quanto è impegnata? Credo capire se mi conviene. Io oggi, allora, io... non è che abbia tutto questo tempo libero, però io immagino che se apro un locale ci vado il pomeriggio, la mattina me ne sto tranquillo, o no? È quello che si immagina all'inizio, effettivamente. Ci si circonda di un bel entourage che sì, ha compiti specifici, che prepara tutto quanto, in realtà poi ci si rende conto che in qualità anche di semplice coordinatore si ha la giornata impegnata quasi tutto il giorno, 16-17 ore al giorno, sì, noi dormiamo. Ma quello più o meno corrisponde, anzi devo dire che la mia è anche più impegnata. Ma la sera a che ora posso staccare? Io ad esempio la sera, avendo il locale di degustazione al piano terra che apre al dopo cena, non stacco mai prima delle 2-3 di notte, per poi alzarmi inevitabilmente il mattino alle 8 per questioni di tipo familiare. Cioè comincio a vedere sempre meno gli aspetti. No, io fra l'altro posso contare su delle persone che, perlomeno contando sull'onda lunga dell'affezione radiofonica, già mi stanno scrivendo su Facebook. Maria delle Acciughe, che è un personaggio della Guardiana del Faro di Barbara Alberti, mi consiglia che lei si dichiara disponibile a prepararmi un entrée di acciughe e Guinness nera, birra e acciughe, che già mi sembra una cosa nuova. Nessuno, birra e acciughe poi funziona, perché io penso più mangiano le acciughe più viene sete, e più viene sete più bevono birra, e quindi più guadagno io. Si pensano a binomi ancora più assurdi come la pizza con la Coca-Cola, che... No, quella è una cosa anni 80. È impensabile, il dolce con salata. Va bene, intanto grazie del consiglio, uno che ce l'ha fatta. Marco da Roma invece. Eccomi, buongiorno. Me lo consiglia questo passo epocale? Ma assolutamente no. Non è che abbia più tanti anni di vita attiva, quindi o lo faccio adesso o non lo faccio più. Ecco, non lo faccio. Beh, perché... Io te le devo dire. Perché? Perché c'ho un'esperienza sui locali, da come ha detto lei, a 18 anni aveva questa idea. Io l'ho messa, l'ho realizzata. Lei cosa ha aperto? Ho cominciato con un locale, un ristorante, che poi si è trasformato in un ristorante particolare che era frequentato da persone carine. Che no, spieghi bene, perché ristorante particolare con persone carine. Ristorante era a Largo Leonardo da Vinci a San Paolo. Bella, doveva essere solo per ragazzi, poi si è trasformato in coppiette che non erano coppie ma erano amanti. Non ho pregiudizi tipo morale, magari facessi un luogo in cui clandestinamente si incontrano persone che vogliono vivere delle fughe domestiche, sarei felice di farlo. Sì, ma erano altri tempi. Poi pian piano sono aumentate le tasse, sono aumentate non ce le problematiche di rispetto, normative. Una volta, ecco, uno si alzava la mattina con calma, andavi a fare la spesa, poi è diventato sempre più difficile, sempre più problematico, costi esagerati di affitto, di personale, di tasse. Nicoletti, vado all'estero, che sta a fare in Italia? Beh, all'estero ormai, sì, ormai non ma in mi Germania, apre un ristorante in Germania, fai soldi. Sì, vabbè, ma per imbottire di birra ai tedeschi. Non è, io vorrei una cosa che sia non soltanto un posto dove si mangia, ma un luogo in cui passino idee, circolino modi di vita. Vorrei contaminare con il pensiero, il cibo, il divertimento, la fuga domestica. Questa è la mia ambizione. Un luogo dove non si vada soltanto per mangiare, ma si vada per vivere. Qualcosa che sia a metà fra il circolo intellettuale e il ristorante. La trovo così difficile. Sentiamo David da Roma. Pronto? Consigli, veloci. Consigli ne avrei tantissimi. Il problema è che io parto da un presupposto che per fare questo lavoro bisogna averlo sempre fatto, sennò si va falliti. Chi non è figlio di oste nemmeno deve provarci. Sì, perché io ho aperto un locale dove ne aveva aperto un altro che non faceva questo lavoro e lui ha chiuso dopo 3 mesi e io invece ho funzionato molto. Perché molto lei è di famiglia, bene, diciamo, ristoratore di famiglia. Ristoratore di famiglia, sì, e poi io ho sempre fatto questo lavoro da quando da quando... Vabbè, è lo spirito di casta che muove le sue parole, perché lei non vuole, come i notai che sono tutti figli di notaio, come gli avvocati che hanno lo studio di papà, come i medici che sono figli di medici. Io voglio fare l'oste, non posso fare l'oste avendo fatto il giornalista tutta la vita. No, però no. Purtroppo serve molta esperienza. Io adesso ho un locale piccolissimo di 30 posti e ne ho aperto da... E quello sarebbe il mio sogno, un locale per pochissime persone selezionatissime. Almeno non strillano, non urlano. La sera faccio aspettare persone fuori per entrare perché non c'è mai posto. E, beh, lei è fortunato, al suo mestiere. No, io sono bravo, non sono fortunato purtroppo. Lo so, beh, anche perché io comunque investo tutta la mia vita. Io dalle 9, ecco, adesso sto rimpiazzando la veranda e rimpiazzando un vaso che ieri mi hanno buttato per terra. Dalle 9 fino alle 2:30 di notte io sto qua. Quindi la sua formula non è un lavoro per improvvisati. No, è tante ore e tanto impegno. E mettersi in società con uno bravo portando, che ne so, il proprio know-how di relazioni, conoscenze, capacità di promuovere, non funzionerebbe? Io stavo in società, appena ho aperto questo locale, ho aperto in società con un ragazzo che dopo il primo mese l'ho dovuto liquidare perché non era portato assolutamente per fare questo lavoro. 800 24 00 24. Sto cominciando a farmi un'idea, ma voglio sentire un professionista. Al telefono Renzo Franceschini, buongiorno. Buongiorno. Franceschini è fondatore dell'Osteria Vineria Oste della Malora di Terni. Oste della Malora da quante generazioni? Ma diciamo, io sono stato partorito in una osteria nel lontano 1946 e mio nonno aveva... Cullato in una damigiana praticamente. Quasi. E mio padre e mio nonno aveva una locanda a Senigallia lungo l'autostrada, lungo l'Adriatica. Quindi l'oste della Malora ribadisce il concetto che o si nasce osti o se no è meglio lasciar perdere. Sì, ma io poi ho fatto il venditore di vino, insomma, non... ci vogliono caratteristiche particolari per aprire un locale. La principale è la passione di avere ospiti a casa propria e poi avere la... Ma questo a me piace, io sono felice quando viene qualcuno casualmente che passa per casa e dico fermati a mangiare, sono felice quando si ferma, quello mi viene bene. E questo è il... Ma qual è il salto per cui possa diventare un'attività imprenditoriale poi? Ma il salto è che uno deve avere un... una proposta seria, cioè quindi la mattina alzarsi alle 9 come ha detto l'ultimo. Vabbè, mi sono alzato alle 4:45 per 20 anni della mia vita, figuriamoci. Allora niente, se uno mi spaventa. Uno va al mercato, trova della cicoria, trova delle cozzettine, se le porta in osteria. Ma cosa bisogna avere? Una caratteristica particolare? L'oste della Malora, oltre a essere un luogo dentro Terni, una delle poche aree rimaste ancora medievali di Terni, città che ha avuto la sfortuna di essere bombardata, non peraltro, riesce a mettere insieme il cibo, la capacità di abbinare vini anche con attività tipo ludico, è il luogo in cui esiste il culto di San Pippone, avete una sorta di icona in cui vengono le donne straniere. Fotografavissima. Sì, ecco, quindi l'aspetto intrattenimento è importante, unire al cibo delle attività di tipo culturale, adesso non so se San Pippone sia un'attività culturale, ma attività che in qualche maniera facciano pensare chi va lì che non si va soltanto per mangiare, per un insieme di piaceri diffusi. Sì, ma uno se fa delle proposte serie, come si dice, seleziona la clientela. Io per fare un esempio, sabato sera abbiamo chiuso alle 3 del mattino perché una coppia di ragazzi di Roma e una coppia di ragazzi di Terni si sono incontrati e non conoscendosi, uno fa il regista a Roma, uno fa il regista a Terni, che ha fatto anche un film, Alice, un film che uscì da adesso, e hanno parlato fino alle 3 bevendo grappa. Ecco, in quel caso l'oste non se ne può andare, non può dire no, ragazzi si chiude. È un godimento per me vedere questi incontri, questi scambi culturali, questa, vedi oste della Malora, questa sarebbe la cosa che a me piacerebbe fare, mi piacerebbe trasportare su un piano imprenditoriale il piacere che ho di invitare a casa mia, ma poi la mia è una casa normale, con figli, mogli che entrano e escono, mutande sporche per terra, non è una casa che chi vuole viene e chi vuole non viene, però a me piace molto far venire gente. Se trasformassi questa in un'attività imprenditoriale, potrei riuscirci, ma io mi pongo come case history. Chiunque dei miei colleghi, delle persone che fanno un lavoro cosiddetto intellettuale, su un giorno si stancano di lavorare soltanto con la testa o di essere apprezzati soltanto, che bello quello che dici, quello che pensi. No, voglio che ti piaccio perché so cucinarti questa pasta asciutta, perché ma ti non faccio. Basta. Non basta. Non basta, no, ecco, ci vuole che ci sia l'aspetto ludico spontaneo più che dettato. E che ci sia una volontà di non fare soldi, perché se uno apre un locale pensando... Beh, mica lo può fare per rimessa uno. No, però insomma uno deve sapere che ci sono dei momenti in cui deve tirare la cinghia, perché... Ma hanno visti tanti anche nel mio modesto lavoro di questi momenti, capita. E allora non c'è nessun tipo di problema. Quindi no, l'unico problema, sai quale potrebbe essere, Oste? Il rapporto con le persone. Oggi nella mia vita ho la grande libertà di poter sfanculare chi non mi sta simpatico. Dal punto di vista del gestore di un locale non si può fare questo. No, non si può fare questa attività. Bisogna sempre essere gentili con tutti. Qui ci vuole un... Esatto, i problemi uno deve appendere con la giacca sull'appendiabili e diventare suo malgrado a volte, però è una carica adrenalinica che ti dà il cliente, cioè l'emozione. Io quando parto da casa alle 4:30 per venire in osteria, parto un attimino un po' stonato, arrivo, so che c'è Beppe Neri, c'è Tizio, c'è Caio, mi dà quella scarica di adrenalina come se avessi degli amici che mi sono venuti a trovare. Ecco, questo sarebbe il mio sogno, hai detto esattamente la cosa, creare un locale in cui possono venire gli amici. Certo, il problema è se il locale vengono solo gli amici poi non vogliono pagare, poi diventa una sorta di succursale casa proprio e l'aspetto imprenditoriale va a farsi benedire. Quando si è connu, quando si è reconnu, perché se perdre de vue, se reperdre de vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, perché se séparé. Melog 2.0 800 24 0024. Certo, parlo al pubblico di Radio 24, dovevo aspettarmelo. Mi stanno scrivendo tante persone, mi dicono: tu metti soldi, se tu metti soldi poi il locale ci pensiamo noi, entriamo in società. Hanno le idee, hanno il know-how, hanno la capacità, l'esperienza e gli serve un finanziatore. Ma io non voglio finanziare nulla se non me stesso, voglio un modesto localino in cui metto a lavorare magari moglie e figli, che ne so, a gestione familiare. Vorrei delle cose che la gente si diverta, che esca la sera felice, che possa avere un angolo di felicità, un'uscita dal mondo controllata, con una via di ritorno che sia sicura, tranquilla, non implichi nessun pericolo se non quello magari di superare il tasso alcolico nella misura in cui si possa farlo senza essere poi costretti a dover guidare. Vediamo un po' qualche ascoltatore al telefono. Abbiamo Davide da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, era una semplicissima osservazione per quanto riguarda una piccola esperienza che ho avuto anni fa. Mi ricordo, venivo da Como, io sono venuto d'Italia a Bergamo, e girando qua e là in alcuni bar della zona mi ricordo che diedi qualche piccola informazione, qualche piccolo consiglio così qua e là, perché lavorando anche a contatto stretto con i bar, perché facevo... Ma lei cosa fa di mestiere? Io ho fatto anni fa, quando diedi questi consigli, facevo l'agente di commercio e mi ricordo che giravo parecchio nei bar e vedevo un po', diciamo, un po' tutto il mondo, tutto il settore. Quindi lei, solo per aver visto, poteva dare consigli? Sì, mi sentivo dare qualche consiglio qua e là. Mi ricordo che andando in giro qua e là, bevendo il classico caffè, perché sono amante del caffè, diedi qualche consiglio sull'aperitivo, sull'after, l'happy hour, non so, quello che viene chiamato la presenza internazionale. Sì, che poi diciamo che è un po' degenerata. Io adesso non voglio dire... L'happy hour milanese significa dare tre mezzini ritagliati e pizzette ammuffite, tanto per imbottare un po' le persone. No, assolutamente no, assolutamente no. Cioè, chiaro che un buon gestore l'aperitivo lo deve fare comunque sempre a regola d'arte, perché è indice di professionalità. Però mi ricordo che già allora, 15 anni fa, alcuni locali mi dissero: se ero matto a dare consigli di questo tipo, perché la gente del posto non si meritava questo, erano abituati al bianco sporco, tanto per fare. Comunque lei non ha mai messo in pratica i suoi consigli, lei non ha mai pensato di cambiare vita e fare l'imprenditore di ristorazione. Sono 20 anni che ci penso, ma purtroppo non ha avuto il coraggio. Non ho la capacità, ho avuto le due tipi di capacità, o quella economica o quella imprenditoriale. Penso di non avere tutte e due. Io non ho nessuna delle due, però ci voglio provare lo stesso. Enrico, la provincia di Brescia, Enrico? No, io sono Furini. No, Enrico, figlio di ristoratore, un'azienda agricola, leggo sulla scheda. Pronto, mi sente? Ecco Enrico, sì. Sì, buongiorno. Sì, volevo darle qualche consiglio. Il primo è che per essere ristoratori bisogna avere cultura per poter fare cultura, soprattutto. Beh, quello studio, ho studiato tanto nella vita, studierò. Ma bisogna provare, conoscere i produttori, sapere dove andare a reperire la materia prima, soprattutto al giusto prezzo, per offrirla al giusto prezzo. Sì, ma io voglio fare una cosa piccola, limitata, 30 coperti, non è una cosa gigantesca. Sì, appunto perché sono 30 coperti, dovrò puntare sulla qualità più che sulla quantità, giusto? Mm. Quindi l'aspetto, l'aspetto della spesa, non avevo, io pensavo più all'aspetto di intrattenimento, atmosfera, è vero, bisogna andare a fare la spesa la mattina, questo non l'avevo pensato. E sai conoscere il proprio territorio o i produttori da cui, di cui potersi fidare per offrire un prodotto giusto e, torno a ripetere, al prezzo giusto. E lei come fa? Io vado in giro, mi propongo e cerco di offrire il mio prodotto al prezzo giusto, sperando che poi lo offrano al prezzo giusto e facciano capire che cosa sta dietro a una Quindi, bottiglia di vino. A lei non importa se dicono ma è un po' caro, è caro perché almeno sai quello che mangi. Sì, non è tanto la questione di è il caro. No, io vorrei 30 persone che però non mi vengano adesso a spaccare la lira, costa troppo, che non abbiano problemi, no, se no non ci vadano a un altro posto. Vorrei un posto, sì, che si paghi, onestamente vorrei far pagare, non vorrei un posto che è economico, perché il posto economico, ahimè, non ti permette quella selezione. Adesso è un sacrificio, la gente spende pacchi di soldi in futilità inutili. Per una sera diversa voglio poter spendere, per un cenone di Capodanno, mangiare cotechino riscaldato e lenticchie stracotte, la gente è capace a spendere 500 euro fino a 1000. A Roma c'erano dei cenoni di Capodanno a 1000-1500 euro e c'era la lista d'attesa. Per mangiare penso delle cose date con la pala meccanica, quindi un posto... Quanto potrei far pagare a coperto secondo lei? Beh, dipende dalle materie prime, dipende da quello che vuole offrire. Mangiare pochissimo, bere molto bene, ottimo locale. Mangiare poco, se fai mangiare tanto, quelli... Mangiare pochissimo, assaggiare, però cose raffinatissime. Ma ci sono locali storici dove con 25-30 euro si mangia davvero bene. Sì, io direi di tenersi sotto i 50 euro, sotto. 40 euro, una buona spesa. Tranquillamente. Ecco, adesso vediamo un professionista che addirittura ha scritto un libro sulle disavventure di un piccolo imprenditore, è Luigi Furini. Luigi Furini, buongiorno. Buongiorno. Ho voluto farla stare in ascolto, volevo che avesse un polso aggiornato sulla situazione. Luigi Furini, che è un giornalista, è un autore, ha scritto «Volevo solo vendere la pizza, le disavventure di un piccolo imprenditore, edizioni Garzanti, 2007». Più o meno, ecco, siamo colleghi. Tu da giornalista hai voluto provare a fare quello che io sogno di fare. Ci sei riuscito? Non farlo! Ecco, vedo, già lo immaginavo. Perché? Ma perché intanto noi che abbiamo fatto i giornalisti o facciamo i giornalisti non abbiamo quello che dicono questi ascoltatori, la cultura del mangiare, del bere, di queste cose. Abbiamo sì frequentato ristoranti locali, ma non abbiamo idea di quanta fatica, di quanto impegno ci voglia, di quante conoscenze ci vogliono. E poi c'è la burocrazia che nessuno mette in conto. È quello il problema. La burocrazia viene lì ogni minuto uno a chiederti se sei in regola col bagno, con l'aspiratore del bagno, se il gradino, se hai segnalato il gradino, che se uno inciampa senza che ci sia il cartello che segnala il gradino ti fanno una multa, se hai controllato l'estintore se è scaduto, per dirti, no, lo scontrino fiscale. Ma, il tu però ci hai provato, ci hai provato almeno per scrivere un libro, ci hai provato. Io ci ho provato, mosso però, dal mio stesso istinto dire cambio, che bello, una meraviglia. Io all'alba dei 50 anni ci ho provato perché dico, io volevo provare a tutti i costi, volevo farlo, volevo aprire una catena in Italia e nel mondo che si chiamasse Tango, che era il mio locale a Pavia. Per la verità la catena si è fermata al primo anello, cioè a quel negozio lì, a quella pizzeria lì. E ti sei rovinato investendoci tutti i sudati risparmi di una vita di lavoro. 100.000 euro. Che hai perso tutti. Persi completamente. Persi, non tutti, però dopo l'ho ceduta a meno di quello che ho speso. Cioè ancora piangi per questa attività? Sto ancora piangendo? Sì, questo domando, no, per capire ma cosa mi ha. Ma perché dopo nella vita c'è, quando uno c'ha la salute, allora dice top. Sì, è un paio di scarpe nuove, certo, è chiaro, a parole si dice. Hai capito, e vai avanti, però certo se mi dici come è andata a finire ti dico che ci ho rimesso. Allora, perché il personale, la gestione del personale è complicatissima, e poi ci sono contributi da pagare, se uno vuole fare le cose in diciamo, la burocrazia soffoca ogni slancio poetico e creativo nel campo della ristorazione. La burocrazia soffoca e poi i costi, perché parliamoci chiaro e diciamoci le cose in faccia, se no se facciamo finta di niente allora stiamo qua a perdere la mattina. Allora, tutti quelli che ci hanno che hanno intervenuto fino adesso, si facciano un esame di coscienza, sono tutti in regola, hanno il personale in regola, sono con i contributi a posto, hanno assunto i camerieri e le persone a tempo indeterminato con i contributi, tutto quanto, perché poi dopo si, quando io ho avuto problemi anche col personale eccetera eccetera, il sindacato che mi ha detto: ma lei è matto per un'attività e assume queste persone qua, lei non lo sa che queste attività vanno avanti, gestione familiare con tuo fratello, tua sorella, il cognato, così. Quindi c'è una zona grigia, una zona grigia che ogni imprenditore ben conosce, che è molto difficile da gestire per chi non è del mestiere, diciamola così. No, ma a me, ma la cosa che mi ha sconvolto è stato il sindacato che mi ha accusato di aver assunto le persone praticamente, perché io non avendo cugini, fratelli, sorelle, però mi sono, ho preso il personale e l'ho assunto a libro pari, gli pagavo lo stipendio, gli pagavo i contributi. Quando sono venuti fuori i disastri, il sindacato ha detto: ma lei è matto, cioè lei queste cose qua si fanno in famiglia, cioè capito, cioè come dire che poi dopo uno gli dà la mano, tuo cognato, tuo fratello. È molto chiaro, guarda, è molto chiaro, questa è stata veramente una bella botta al mio entusiasmo. L'aspetto burocratico assieme all'aspetto della spesa mattutina non l'avevo considerato. Sentiamo un'esperta di materia, che è anche una melogmane sfegatata, Maria da Novara. Maria. Ciao Gianluca, come stai? Maria è la gruppi messicana che ogni tanto chiamiamo, ma questa volta è chiamata in caso perché io conosco la tua vita privata, Maria, perché tu una volta me l'hai raccontata e io subdolamente ti estirpai. Tu eri giornalista in Messico, città del Messico, per una delusione d'amore per un uomo che non meritava la tua intima d'azione, a un certo punto hai lasciato la professione e ti sei messa a vendere tacos e tortillas. Più o meno, la storia più o meno così, più o meno. Sì, infatti io, più che altro perché in Italia, siccome non riuscivo a farla giornalista, perché non essendo l'italiano la mia lingua, perché tanti motivi, ho deciso di fare una... Beh, la lingua si addestra, che vuol dire? Uno può far progressi. Lo so, però comunque non è che mi entusiasmava più di tanto. Ma tu sei del mestiere, cioè avevi genitori che già facevano i ristoratori o ti sei improvvisata? Allora, io sono stata sempre molto brava in cucina perché mi piace, è una cosa che mi piace e comunque si impara, cioè io il cibo che io propongo è sempre cibo messicano vero. Non Però grazie, scusa, io se vado in Louisiana e mi metto a fare gli spaghetti divento il miglior spaghettaro del circo, delle paludi. Funziona. Ecco. Però ovviamente ti posso dire che ho delle clienti che sono messicane, vengono da me non perché loro non sappiano cucinare, ma perché apprezzano che magari quello che propongo è una cosa di qualità. Ecco, tu hai trovato diciamo che ho il tocco, quello sì. Hai il tocco magico della messicana. Sì, diciamo di sì. Ecco, tu hai passato tutte le difficoltà che stanno dicendo quelli che vogliono disilludere. Sì, guarda, le difficoltà che dicono loro sono tutte quante vere. Davvero è una cosa pazzesca. Io ho aperto un anno fa, anzi domenica è il mio primo anniversario di aver aperto il mio piccolo takeaway, e ti dico che infatti sono piena di debiti e infatti devo fare la spesa la mattina e tutte quelle cose burocratiche che ha detto la persona che ha parlato. Ma fai prima tutto da sola o ti aiuta qualcuno? Allora, io faccio tutto da sola nel senso amministrativo eccetera eccetera, ho una ragazza che sta con me, che è una mia amica, che mi dà una mano. E l'hai messa in regola? Sì. Però anche quello è una cosa che non è facile da gestire. Però non hai più una tua vita relazionale, sentimentale, erotica, fine, basta, sei diventata una cuoca. Ma no, non esageriamo, che io il marito che cioè, mi sostiene, mi appoggia. Ma lavora, ma lavora con te il marito? No, lui fa il suo lavoro. Lui è quello che ha guadagnato in tutta la cosa, scusi, è una fonte di reddito sicura, una moglie sempre fuori casa, quindi secondo me lui ci ha guadagnato più di te. Ah, oh, che cattivo! No, non lo so. Ma non penso. Lui, anzi, perché lei mi ha sostenuta con la spesa iniziale. Ah, lui ti ha finanziato. Però tu alla fine anno gli lasci i debiti, quindi non so quanto gli è convenuto. Evidentemente il suo investimento era giustificato da poter dislocare parte della sua famiglia in un luogo sicuro e protetto, e in fondo anche con un certo reddito. Grazie Maria, grazie a quanti hanno finora chiamato, ma il bello verrà nell'ultima parte di Melgo, in cui entreremo in merito all'aspetto intrattenimento. Ho detto musica, spettacolo, belle donne, qualche uomo se proprio volete, visto la possibilità di fornire un servizio completo. 800 24 0024, tra un istante, dopo l'informazione del traffico. s'est connu, quand on s'est reconnu. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Sadicamente, gli ascoltatori che mi seguono su Facebook già mi stanno dando i nomi per il locale. Qualcuno vorrebbe lo chiamassi Planet Golem, già un nome sfigato quello, mi ha portato una sfortuna bestiale. Non a caso faccio Melog, cioè faccio esattamente il contrario. Figuriamoci, chiamare un locale in quella maniera significa condannarlo al tracollo prima ancora di iniziare. Dicevo, adesso voglio entrare più in merito all'aspetto intrattenimento. Ho capito che per l'aspetto culinario e gestionale da solo non ce la farei mai. Avrei bisogno come minimo di un organizzatore tecnico, di un commercialista, di qualcuno che gestisse il personale, e già la vedo molto complicata. E non so bene poi in tutto questo quale sarebbe la mia parte. Ma per l'aspetto intrattenimento un'idea era venuta a Francesca da Roma. Francesca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Che tipo di locale sta al centro del tuo sogno più incredibile? Allora, diciamo che io tempo fa avevo ideato, avevo un sogno, cioè quello di aprire un locale in cui poter esprimere, poter legare anche due mie passioni, che sono anche le passioni di altre conoscenze, cioè la fotografia e il teatro, teatro inteso diciamo a tutto raggio, perché anche nel senso di presentazioni di libri, canto. Ma in cui si mangia e si beve pure o si fa soltanto striptease e fotografie? Esatto, io l'avevo concepito come diciamo un locale diviso in due parti. Un angolo attivo durante il giorno che offriva su strada, che offrirebbe diciamo su strada la possibilità di rilassarsi, come non si riesce a volte a fare nelle proprie case. Beh, guarda, qui intorno alla stazione Milano è pieno di locali con delle belle cinesine che promettono relax. Però, non era questa cosa qua. Però il valore aggiunto sarebbe stata l'idea appunto di fondo del locale, ovvero un salottino retro in cui diciamo accanto ad uno studio fotografico, un piccolo studio fotografico, un angolo studio finalizzato al ritratto vintage, quindi servizi, il servizio quindi sarebbe consistito nella caffetteria, sala da tè, relax, studio fotografico vintage. Ah, relax nel senso un posto accogliente, diciamo, non una spa in piccolo, ecco. No, un posto accogliente, un salotto di casa praticamente. È quello che piaceva a me, sì, infatti. Esatto, costruito proprio nel senso, con quella concezione del relax che non si riesce più ad avere. Invece annesso qualcosa che appaghi il desiderio che vediamo tutti i giorni su Facebook di fotografarsi. Esatto, Facebook esiste perché? Come? Signori, signore e signorine si fanno delle foto belle, poi le virano, esatto, con Photoshop, poi se le scambiano dicendo tu davi il set per farsi fotografare. Certo, quindi costumi, trucco, parrucco, quindi da utilizzare per i travestimenti. Una specie di burlesque un po' più moderato, ecco. Solo basato però sulla fotografia, anche perché diciamo che la donna ormai... esisteva quindi alla base di questo progetto anche uno scopo indiretto, secondario. Quindi, beh, io ho fatto l'apoteosi stamattina della mutanda elastica contenitiva di Anna Falchi, esatto, post mamma, quindi esattamente questo, le signore che non sono in linea con un modello estetico proclamato, esatto, e usurato, vanno lì e diventano, esatto, belle improvvisamente. Esatto, cioè convertire il concetto occidentale del grasso è brutto, dell'idea che grasso è brutto, ed esaltare in questo modo anche le più cicciottelle, le più tornite, che si potevano sbizzarrire come volevano ed essere bellissime. Quindi tu fornisci costumi, trucco, parrucco, fotografo, le signore entrano, certo, si rilassano, si nudano, si vestono, si fanno le foto e escono con... Si divertono a trasformarsi. E escono con il CD, con la foto digitale di loro bellissime. Ed escono così, con la foto digitale rilassatissime. E lo stesso possono fare gli uomini, ovviamente. E questo, diciamo, sarebbe un tassello importante della mia idea, perché questa parte di idea mi piacerebbe. Se riuscissimo a trovare qualcuno che è capace a cucinare, a fare la spesa, a gestire i conti, gestire il personale, avere rapporti con clienti, con questo tassello sarebbe meraviglioso. Grazie Francesca. Manuela, da Milano. Guarda, ci sono io, sono arrivata, sono qua. Per sono fare cosa? All'altro tassello che mancante, facciamolo. E qual è il tassello? Allora, io ho una serie di esperienze. Dillo, perché sono... C'è tassello sorrido, e tassello. No, io sorrido perché già da stamattina, quando ho sentito quello che dicevi, dico, non è possibile. Io al contrario, dopo 20 anni di questa attività, ieri sera ho fatto una rivoluzione, un piano, perché voglio cambiare lavoro. E allora ho proposto mio marito, mio figlio, 15enne, faccio cambiare. Ma che lavoro fai te? Gestisci? Noi abbiamo un ristorante, sono 20 anni che... Però si mangia soltanto, noi vogliamo una cosa un pochino più variegata. Infatti quella che dicevi, molto carina, cioè si sta piacevolmente insieme, si chiacchiera e tutto. Però alla fine, quello che io dico, dopo 20 anni uno non ce la fa più. Vabbè, ma guarda, qualunque mestiere, uno non ce la fa più anche di non far niente dopo 20 anni. Anche un geometra, anche un ragioniere, anche una casalinga. Bisogna cambiare, facciamo un cambio, tu vieni qua, io vengo là. No, ma io non voglio neanche fare lo sguattero, io voglio un posto in cui mi diverto. Certo, ma cosa potrei fare io in un ristorante? Fammi capire. Ma la mia esperienza, per esempio, cioè, a me... Il mio marito era chef, era cuoco, quindi io ho preso la mia voglia di fare, di lavorare in proprio imprenditorialità e l'ho abbinata a lui. E questo è stato il mix importante. E infatti è andato sempre tutto bene. Mi piacerebbe un ristorante e non si sente l'odore della cucina, questa sarebbe la prima cosa. Perfetto, e poi non ci siano luci dall'alto, vorrei tutte luci che vengono dal basso. Basta. Queste sono cose che si fanno, cioè l'ambiente. E non crea. Ci sia il buffet con gli antipasti, poi se vuoi gli antipastini li servite da voi. Cioè la filata dei cadaveri, degli zombie. Allora, di io settimane dico prima. Che tutto ciò è possibile. Mi dispiace che effettivamente quello che ti diceva il tuo amico giornalista prima ha perfettamente ragione. Lo so, infatti so già che andrò. Quello che ci fa scappare da tutto ciò e cambiare lavoro per noi è quello che diceva lui. E infatti io l'aspetto non lo voglio più fare perché sono stanca. Sono stanca di fare questa vita che mi ha preso tanto, mi ha fatto fare solo. Quindi, diciamo la verità, uno in più non lo potevo. Uno come me fare. Potrebbe far soltanto il pianista nel piano bar, che invece di suonare il piano chiacchiera alla fine, non può far altro. Ma no, non è vero, perché poi dopo stare vicino a persone che io non ho mai per esempio cucinato, poi contemporaneamente ho aperto un altro locale, perché appunto volevamo cambiare un pochino eccetera, quindi abbiamo fatto Enoteca Wine Bar, mantenendo sempre il ristorante, eppure lì ci sono stata io e... Ero bravissima a fare i piatti che prima non avevo mai fatto. Lo so, a me quello piacerebbe fare, però dovrebbe essere una cosa non costante, farlo finché mi va di farlo. Sentiamo Peppino Manzi, buongiorno. Buongiorno. Barman di lunga esperienza in Italia e all'estero, ha lavorato in tanti locali, poi ha aperto un piano bar negli anni 70 e ha il sito www.bar.it. Lei ha sentito fino adesso le mie sciocchezze e le mie vanaglorie. Potrebbe aggiungere qualcosa per sconsigliarmi definitivamente di cambiare mestiere? Ho sentito sciocchezze e vaneglorie, ma però ho sentito anche quel Luigi Furini a esprimersi in maniera concreta. Sì, infatti mi ha sconsigliato di farlo. Ecco, a ognuno il suo mestiere, gli ignoranti alla cariola, diciamo, qua noi in Romagna. Sì, ma non si può mai cambiare, c'è gente che prende una laurea a 90 anni. Senta, io ho conseguito il mio mestiere con grande passione. Sono andato in giro per il mondo e me lo sono imparato. Poi credevo di realizzare il mio sogno, ma non avevo fatto i conti, bisogna anche imparare ad essere imprenditori, specie in questo periodo. Non ci si può mettere nelle mani delle associazioni, Ascom e roba del genere. Perché adesso entra in un terreno che io non conosco, meriterebbe una trasmissione a parte. Per me l'aspetto... Si fa una vita esagerata. Diciamo, chi fa da sé naturalmente fa meglio perché gestisce tutte le leve del suo mestiere. Però mi sembra aver capito, non basta la passione, non basta la competenza tecnica nella materia dell'intrattenimento, della culinaria, dell'enologia, ma bisogna avere una grande capacità imprenditoriale. Massimo, esatto. Sentiamo Massimo dalla provincia di Siena. Sì, buongiorno. Lei è anche musicista, quindi può allargare un pochino la rosa. Sì, dunque io ho fatto musicista sempre praticamente, ho sempre suonato il pianoforte e le tastiere. Allora che è successo? Una volta andai come cliente in questo ristorante in Toscana dove c'era il pianoforte a coda, cosa incredibile perché era tanto che non lo vedevo all'interno di un ristorante. e mi misi a suonarlo. Il titolare mi disse: Massimo, vieni qua che cominci a suonare e così fai un po' di compagnia, un po' di intrattenimento. Poi a quel punto lì lui mi disse: ma perché non lo dirigi anche questo ristorante? Allora io che cosa facevo? Suonavo il pianoforte, poi andavo dai clienti, servivo i clienti, perché io volevo assolutamente servire, certo, perché quello mi permetteva poi di parlare, di instaurare un discorso, di dialogare, e poi sceglievamo le canzoni e io andavo al pianoforte. Sì, mancava poi che le legasse uno scopettino al fondo schiena e puliva anche per terra, già che c'era. Mi sembra io, che... Sì, sì, sì, sì, perché è proprio questo, è proprio questo. Quello di essere è praticamente una specie di jolly, dove ti vedono fare questo, servire il vino, consigliare il vino, e poi ti vedono al pianoforte, questa è una cosa simpaticissima. Sì, ma lei alla fine, dal punto di vista economico, le rendeva questa cosa? Certo, perché io facevo la direzione del ristorante. Vabbè, lei mi sembra l'unico esempio positivo dei tanti che, devo dire, drasticamente mi hanno portato a rivedere la mia decisione, e quindi mi dispiace per voi. So che molti ne rimarranno affranti, ma domani mi risentirete ancora a Meloc. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.